infame li odio. Ostacolo la loro corsa al podio. Quanto godo se finiscono a rogo. Ma il mondo gira male, risaputo. Ho rime per ogni figlio di troia che nella mia vita ho conosciuto. È inutile dirlo, conto su quei pochi e sul mio flow. Non dico stronzate, ho visto più infamate che in blow. Ma ormai mi sono abituato, mi sono isolato. Se l'infame dovesse bruciare, dovrei incendiare il vicinato. E non scherzo, se do fiducia non ho nulla in cambio. Se ti vedo sterzo, poi ti mostro quanto valgo. Nonostante tutto proseguo su sta strada dritta. Non fidarti della iena, perché se ne approfitta. Non hai capito, non so il male che ho percepito. Pugnalato e tradito da chi credevo mio amico. E a quel punto ti senti alienato. Non trovi più appigli, incassato, svegliato fuori. Ho tirato fuori gli artigli. Ridiamo degli infami che ci buttano sopra merda. Stronzo con una faccia da culo stupenda. È meglio se la smetti di insultarci, ti conviene. Noi siamo bracconieri, viviamo cacciando iene. Queste rime sono fucili per riempirvi di pallottole. Siamo come specchietti per voi che siete all'odole. Se vi suicidate scende la mia gente in piazza. Ubriachi sulla traccia, a cascana e tazza. Tutti presi bene, sai, si credono importanti. Questi stronzi sono in tanti a sputare merda sugli altri. Notte e giorno queste critiche di quelle iene aumentano. La musica la faccio mentre loro si lamentano. Ma che pensano? Che loro insulti mi tocchino. Suonano più bassi di sti bassi che difendono. Prova a aprire le orecchie del tuo culo, faccio un calco. Per quanti cazzi ti prendi ti regalo il borotalco. È scontato come tutti vengano allo scoperto. Mangiatori di carcasse, morte in un modo incerto. Ma che dico, perdo tempo, parlarvi a cosa serve. Aspetto da iena con lo spirito da serpe. Uomini senza palle, a chi emerge gli si sputa. Se non siete voi a cambiare io vi riempio di cicuta. Mente acuta che ragiona, non si omologa alla massa. Fotta si alza, non si abbassa, intrappolato sotto cassa. Ridiamo degli infami che ci buttano sopra merda. Stronzo con una faccia da culo stupenda. È meglio se la smetti di insultarci, ti conviene. Noi siamo bracconieri, viviamo cacciando iene. Queste rime sono fucili per riempirvi di pallottole. Siamo come specchietti per voi che siete all'odole. Se vi suicidate scende la mia gente in piazza. Ubriachi sulla traccia, a cascana e tazza. Sono nate per succhiare, per fare il loro interesse. Più le vedo più per loro il mio odio cresce. Pensano solo a loro stessa a farsi salire la botta. Non capiscono che è peggio perché sale la fotta. Di fotta ne ho tanta dalla prima che ho scritto. Se questo modo per scappare mi ci butto a capofitto. E mi dispiace cara iene, impara, la paghi cara. H col colpo in canna, Daza con scanna lo spara. Successo lo raggiunge solo chi sta merda suda. Ti sbatti sempre in vano a causa di questi Giuda. Di chi fidarsi o meno, nel frattempo me lo meno. Voi aspettate a bocca aperta che se sborro ve la pieno. Sputa, coraggio, forza, fallo di nuovo. Tanto non mi scalfisci neanche se mi appicchi un rogo. Tu critichi, dai aria alla bocca, io scopo poco. Meglio scopare poco che non avere uno scopo. Ridiamo degli infami che ci buttano sopra merda. Stronzo con una faccia da culo stupenda. È meglio se la smetti di insultarci, ti conviene. Noi siamo bracconieri, viviamo cacciando iene. Queste rime sono fucili per riempirvi di pallottole. Siamo come specchietti per voi che siete all'odole. Se vi suicidate scende la mia gente in piazza. Ubriachi sulla traccia, a cascana e tazza.